sarebbe quindi la storia di Manuel Pereira da Ponte Martins, dittatore agorafobico e nomade, che avrebbe potuto, come tanti altri, finire in Europa un'esistenza da predatore insignificante e che invece si precipitò verso il proprio destino, assillato dalla certezza che laggiù, a Teresina, dove aveva lasciato un sosia in tutto e per tutto simile a lui, regnasse ora la sua caricatura. E fu la sua caricatura che Pereira fece fuori, 6 settimane dopo, con un unico proiettile in fronte. Accadde sulla piazza centrale di Teresina, una piazza rotonda circondata da case di fango e paglia e quel giorno affollata di contadini. Era una ricorrenza. In tutto il paese si celebrava l'avvento del santo presidente con una distribuzione generale e gratuita di bacalhau domenino, il piatto nazionale. A 30 metri all'incirca da Pereira, in piedi sulla scalinata del palazzo presidenziale, una sagoma mezza gobba, in uniforme di gala, quella che Pereira indossava per il funerale della santa, riempiva con cerimoniose mestolate le ciotole e le scodelle che si tendevano. Pereira non avrebbe saputo dire se fosse un grossolano abbozzo di se stesso o invece un ritratto troppo perfetto che avesse oltrepassato il punto di somiglianza per precipitare nell'incontrollabile germogliare di tutti i possibili. La dissomiglianza saltava tanto più all'occhio in quanto l'impostore officiava sotto un gigantesco ritratto in cui il Pereira originale splendeva nella sua inalterabile bellezza. Ma non fu la vista del nano ciò che più sorprese Pereira. Quando uno naviga verso l'idea di caricatura si aspetta più o meno una visione del genere. Né la cerimonia in sé seguiva alla lettera il rituale che lui stesso aveva messo a punto, né il fervore popolare. In ciò lo scopo, quanto mai prevedibile, era raggiunto. No, quello che gli raggelò il cuore fu, accanto alla sua caricatura, la presenza del padre, il vecchio da ponte, del suo padrino, il vescovo, e di Eduardo Rist, l'amico d'infanzia. Dio del cielo, il loro sguardo, amore paterno, devozione episcopale, amicale fervore. Quegli intimi coccolavano l'impostore come fosse davvero il figlio, il figlioccio o l'amico. Leggermente in disparte, fra i ministri e i rappresentanti delle delegazioni straniere, Manuel Callado Crespo, il capo degli interpreti, lasciava vagare uno sguardo che prendeva appunti. E intorno, la folla adorante convergeva verso la bianca scalinata del palazzo presidenziale, divenuta un altare. Pereira, che si era travestito per mescolarvisi in incognito, con una scodella di latte in mano, capì che anche senza trucco nessuno in quella piazza l'avrebbe riconosciuto. Se anche avesse guardato fisso negli occhi la venditrice di serpenti, lei gli avrebbe sorriso come a un estraneo, indicandogli l'impostore. «Vero che bello il nostro Pereira?» Avrebbe aggiunto da madre apprensiva: «Ma Dio, com'è stanco!» E ciò avrebbe suscitato la sequela dei commenti. Sì, il nostro orecchio invecchia a vista d'occhio. Non è mica uno scherzo essere presidente. A spendersi come si spende lui, ci lascerà la vita. Ma no, un da ponte non muore di stanchezza. A colpo sicuro, Pereira si chiese chi potesse essere lo sconosciuto a tal punto capace di farsi passare per lui nell'animo del popolo e nel cuore di un padre da non prendersi nemmeno la briga di perfezionare la somiglianza. È una questione irrilevante, gli avrebbe risposto Manuel Callado Crespo se Pereira glielo avesse chiesto. E il capo degli interpreti avrebbe probabilmente aggiunto: se alla fine di epsiloniana dissomiglianza in epsiloniana dissomiglianza gli avessero rifilato come ultimo sosia una befana, guercia e pelosa come una lontra, e se questa cosa avesse svolto il proprio ruolo a dovere, l'avrebbero chiamata comunque orecchio mio, figlio mio, amico mio e figlioccio mio. Ma lei, Callado, avrebbe esclamato Pereira, colto infine dal dubbio, già dal primo sosia aveva capito che non ero io. Oh, ma io sono un interprete e un traduttore, avrebbe risposto Manuel Callado Crespo. Nelle 7 od 8 lingue in cui navigo correntemente, non ho mai incontrato due parole che significhino esattamente la stessa cosa. Non ho alcun merito nell'individuare i sosia. Con la caccia alle Epsilon, io mi guadagno il pane. Ma questa conversazione non avrebbe mai avuto luogo. Pereira aveva troppa fretta di punire l'impostore. In verità, l'impostore era già morto. Pereira aveva preso la mira sin dalla prima occhiata. «Prendi la mira prima di sguainare», gli aveva insegnato il generale presidente, «e spara solo per conferma». Pereira teneva sotto tiro qualcosa di sé che gli era sfuggito e che doveva scomparire. «Quella bellezza», disse una giovane donna tra la folla, «è la bellezza del bene». Pereira lasciò cadere la scodella e fece fuoco.